bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 199 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di chimica, geologia, ma soprattutto di petrolio. Cari ascoltatori, più e più volte all'interno di questa trasmissione, all'interno di questo podcast, ci siamo occupati del cosiddetto picco del petrolio. Lo facemmo con il professor Gobardi, professore di Firenze, e parlammo del picco del petrolio parlando fondamentalmente della cosiddetta curva di Hubbard, cioè cercando di capire in che modo il petrolio si originava e quindi quanto petrolio era rimasto all'interno della nostra Terra. Ecco, la risposta a questa domanda ci potrà dire effettivamente quando potremo passare dall'utilizzo delle fonti fossili all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Cosa ci dice la teoria standard? La teoria standard, che è la teoria biologica, ci dice che il petrolio si è originato dalla decomposizione di materiale organico. In realtà esiste un'altra teoria, la cosiddetta abiogenic theory, ed è di questa teoria che parleremo all'interno di questa trasmissione. Lo faremo col dottor Leonardo Spanu del Dipartimento di Chimica dell'Università di California. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi. Leonardo, con te parleremo di un paper pubblicato qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science, intitolato Stability of Hydrocarbons at Deep Earth Pressures and Temperatures, e quindi a questo punto lascio a te la parola per le 100 parole iniziali con cui cominceremo questa trasmissione. A te la parola. Il lavoro è parte di un progetto molto più grande in cui si tenta di capire come il pianeta Terra processi il carbonio, quanto grandi siano i depositi di carbonio e in che forma si possano trovare. Quello che abbiamo fatto è capire se alle pressioni, alle temperature che si trovano all'incirca 100 km sotto la superficie terrestre, una singola molecola di metano possa trasformarsi in una catena più lunga, quindi possa spezzarsi e poi ricombinarsi per formare delle catene molto più lunghe che sono chiamati idrocarburi. E gli idrocarburi sono il pezzo fondamentale che costituisce poi il petrolio. Abbiamo dimostrato che la temperatura e la pressione sono quelle giuste per poter far avvenire questa reazione chimica ad una profondità superiore ai 100 km. Leonardo, ti ringrazio. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale e poi di nuovo in studio. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. You were like walking to somewhere, and I was going to nowhere. I asked you if I could share your way to go anywhere. You had some flowers in your hair, I had some songs singing in the air, and so much other cool things that we could share. You were like looking to the stars, and I was like looking at you. And then I said, I have a car. You said, let's drive to the moon, to the moon. And you said, come on, just take my hand, now let's go together the land. And you said, come on, don't say a word, now let's watch together the world. Said we could live off water and love, and as I was in gray, you kissed me all night long, so my heart can never be empty. And then I said we should find a home when the weather go to my cloud website, it's always sunny. And I asked, oh, can we go there? You answered, just open your wings. And as I couldn't find a feather, you told me so. You just have to sing. You made me climb the highest mountains, made me feel the heat of the sun. Washing every day in the fountains, making love and having fun. Bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone, meglio ancora della 199esima puntata di Caccia Fotone, ne manca una per arrivare alla puntata numero 200 e noi siamo ancora in collegamento col dottor Leonardo Spano del Dipartimento di Chimica dell'Università di California. Il pezzo che vi state ascoltando, intanto giusto per dargli un nome, si intitola Flowers ed è di Jumi, un altro pezzo Creative Commons. Con il dottor Leonardo Spano quest'oggi ci stiamo occupando della cosiddetta abiogenic theory, cioè quella teoria secondo la quale il petrolio e altri materiali simili si sarebbero formati non nella crosta bensì nel mantello. È una teoria, diciamo, non troppo giovane, una teoria che ha qualche annetto di vita, però prima di capire che cos'è questa teoria e prima di capire esattamente quali sono i risultati del lavoro pubblicato qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science, Leonardo, la prima domanda che ti devo fare è cercare di spiegare esattamente che cos'è il ciclo del carbonio, che poi è l'argomento attorno al quale gira tutto il vostro paper. Ma in realtà è un settore interdisciplinare in cui ci sono diverse expertise, diversi campi che si uniscono. In realtà con ciclo del carbonio si intende in qualche modo come il pianeta trasformi molecole contenenti il carbonio da una forma ad un'altra. Il punto centrale appunto del nostro lavoro è tentare di iniziare a investigare come il pianeta trasformi queste molecole, andando a capire non solo la zona della crosta, quindi della superficie dell'atmosfera, ma anche la zona più profonda, che è quella, diciamo, sotto la crosta, quella zona che viene chiamata del mantello. Quindi, se volete, nei prossimi anni si tenterà di cambiare l'idea del ciclo del carbonio non come una cosa che coinvolge solo l'atmosfera o la crosta, ma come un processo in qualche modo che avviene su tutto il pianeta. Senti, giusto per capire il significato di alcuni termini che sono contenuti nel tuo lavoro e per spiegarli a chi ci sta ascoltando, quando parliamo di idrocarburi, che cosa intendiamo? Allora, intanto idrocarburi si intendono composti formati da carbonio e idrogeno, e la loro formazione, probabilmente la teoria attuale dicono che il 99% dei depositi di gas o di idrocarburi, il petrolio insomma, è di origine biologica. In qualche modo nascono dalla decomposizione per un effetto combinato di batteri e temperatura di materiale organico, cioè di quello che un tempo erano piante e animali, che vengono in qualche modo, tra virgolette, sotterrati da strati e strati terra e di roccia e decompongono e si formano quindi questi che sono dei depositi di gas o di catene di carboni e di idrocarburi. Questa è la tesi dominante, insomma. In realtà ultimamente ci sono evidenze che ci sono altri processi all'interno del pianeta che possono generare in qualche modo soprattutto metano, e sono dei processi che avvengono non nella crosta ma nella zona, diciamo, tra la crosta e il mantello, e che non hanno a che fare con il materiale biologico ma sono in qualche modo un prodotto di una reazione chimica tra rocce e acqua. Leonardo, stai un pochino introducendo l'argomento della trasmissione e anche l'argomento del nostro fuori onda, cioè quella disputa tutta scientifica che ha coinvolto le due più grandi potenze al mondo, cioè gli Stati Uniti e la Russia. All'epoca c'era Stalin, insomma il governo sovietico decise di finanziare un grosso progetto, una sorta di Manhattan Project per la ricerca del petrolio. E scienziati russi e ucraini sostenevano all'epoca che il petrolio non fosse di origine biologica ed erano i grandi sostenitori della cosiddetta abiogenic theory, cioè l'idea che il petrolio nasca per un'interazione nelle regioni del mantello tra rocce ed acqua, E quindi i russi, gli scienziati russi sono stati sempre dei grandi promotori della, hanno sempre negato che il petrolio fosse di natura biologica. E sostenevano invece che gli idrocarburi siano un prodotto, diciamo, dell'interazione di rocce con acqua e l'effetto della pressione e della temperatura. Quindi in qualche modo il nostro studio è un tassello in favore della biogenic theory. In realtà però negli anni 40 in poi la biogenic theory non è mai riuscita a fare previsioni dettagliate sulla qualche modo sui depositi di petrolio, cioè tutte le compagnie petrolifere hanno sempre basato le loro esplorazioni su l'idea che quella mainstream, in qualche modo, che il petrolio sia di natura biologica. E allora, ricapitolando un attimo, possiamo dire che la maggior parte del petrolio si è formata nella crosta, però una piccola parte del petrolio si sarebbe formata nel mantello. Ma se è tutto così chiaro, perché la disputa è così storica e il dibattito è così aperto? Uno dei problemi centrali è capire come il petrolio, come si formano i giacimenti e in qualche modo la migrazione del petrolio da una regione ad un'altra. I sostenitori della teoria biogenica sostengono che dal mantello, per esempio, il petrolio possa muoversi in superficie seguendo fratture o delle faglie, insomma. E una delle prove che loro adducono è che, per esempio, in alcuni casi di alcuni terremoti addirittura ci sia il rilascio dal pianeta, per esempio, di gas, e loro sostengono che questa sia la prova che esistano dei fenomeni che generano, per esempio, metano, etano in profondità nel mantello e appunto durante il terremoto vengano rilasciati. Ci sono studi fatti da diversi scienziati, anche un valido scienziato italiano che si chiama Giuseppe Tiope, credo che sia di Roma, che ha pubblicato su Science e su diversi lavori, e lui ha dimostrato che esistono delle regioni in cui si hanno dei depositi di metano di natura abiogenica, quindi di processi che non hanno a che vedere con la decomposizione di materiale organico. Quindi che il pianeta Terra in qualche modo abbia la possibilità di creare metano partendo da materiale che non sia di natura biologica, credo che ci siano delle evidenze ormai. Però il passo successivo, da qui sostenere che sia possibile poi sia possibile sostenere che tutto il petrolio sia di natura biogenica, questa è un'affermazione scientificamente non dimostrata e che al momento non ha delle solide basi, insomma. Sfatiamo subito un mito, se mai si fosse creato. Il vostro lavoro non analizza la quantità di petrolio formatasi attraverso l'ipotesi abiogenica e la quantità di petrolio formatasi attraverso l'ipotesi classica, quella biologica. No, questo è una cosa che voglio specificare in modo chiaro. Questo studio che abbiamo fatto non ha nessun impatto per le previsioni dell'estensione, per esempio, sull'estensione dei depositi di natura commerciale, cioè in qualche modo quanto petrolio e quanto gas c'è sul pianeta per poi venderlo e usarlo per l'energia. Per una semplice ragione: noi abbiamo studiato una reazione chimica e abbiamo tentato di capire qual è la pressione e la temperatura ottimali. Purtroppo però il pianeta Terra è più complicato di una reazione chimica al computer, e nel mantello sono presenti, per esempio, altre specie. Noi abbiamo studiato solo carbonio e idrogeno insieme. In realtà nel mantello è presente ossigeno in grande quantità, anzi si sa che le condizioni del mantello sono ossidanti. E poi non abbiamo studiato un fattore che è fondamentale, cioè capire come, nel caso questi idrocarburi sopravvivano alla presenza dell'ossigeno, poi possano spostarsi in superficie. In realtà noi crediamo che questo studio sia importante in un'ottica scientifica, però non abbia nessun impatto per in qualche modo definire quelle che sarà il futuro degli idrocarburi o le stime di quanti idrocarburi ci sono sul pianeta, almeno quelli che servono per poter essere poi venduti come benzina nelle macchine o come fonte energetica. Ecco, giusto per dare due numeri, le stime attuali che cosa ci dicono? Beh, allora, stando alle stime, per esempio, di alcuni, di alcuni esperti, dicono che il 99% degli idrocarburi e del petrolio che ne abbiamo sul pianeta viene da natura, da processi di natura biologica, cioè decomposizione di materiale organico per effetto di batteri a temperatura. Però in realtà, se uno va a leggere alcuni lavori scientifici fatti invece dall'altra comunità, dalla comunità degli, diciamo, la scuola russo-ucraina biogenica, loro negano questa ipotesi e sostengono che invece la maggior parte siano di natura abiogenica. In realtà il problema è che al momento il vero problema della teoria biogenica è probabilmente quello di non aver fatto delle previsioni chiare sulla presenza di giacimenti di petrolio in determinate regioni. E allora a questo punto ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi di nuovo in studio. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone, meglio ancora della 199esima puntata di Caccia Fotone, e noi siamo ancora in collegamento col dottor Leonardo Spano del Dipartimento di Chimica dell'Università di California. Beh, con lui stiamo parlando del cosiddetto ciclo del carbonio, e meglio ancora di un paper pubblicato qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science, in cui si analizza la cosiddetta abiogenic theory. Lo ripetiamo ancora una volta per chi non fosse in collegamento nella prima parte della trasmissione: la cosiddetta abiogenic theory sarebbe la teoria che ipotizza la formazione del petrolio non nella crosta, bensì nel mantello della Terra. E allora, prima di cominciare con la seconda parte della trasmissione, quindi prima di cominciare a discutere il contenuto del paper, la prima domanda che devo fare a Leonardo è effettivamente su quali dati avete lavorato, se sono dati teorici oppure se sono dati sperimentali. Ma in realtà in qualche modo un punto di partenza sono stati i risultati sperimentali, cioè sapevamo in qualche modo quali erano le condizioni che avremmo dovuto investigare, qual era il sistema, soprattutto cosa molto importante che in qualche modo è la parte anche nuova e originale di questo lavoro: non abbiamo simulato solo la reazione chimica, ma abbiamo tentato di capire quelli che erano in qualche modo gli elementi nell'esperimento che potevano influenzare il risultato finale. Nel senso che, come ho già detto, l'esperimento è un campione che viene in qualche modo strizzato tra due diamanti. Per tenere insieme due diamanti c'è per esempio una parte di metallo, perché due diamanti insieme non potrebbero stare. Quindi immaginate una caffettiera, la forma di una caffettiera: la parte superiore e inferiore sono i due diamanti, e poi, diciamo, il cerchio centrale della caffettiera è un metallo, e nel mezzo c'è questo campione. Quello che abbiamo fatto è capire per esempio come il metallo che è presente in questo apparato sperimentale può influenzare il risultato finale del lavoro. Quindi in qualche modo gli esperimenti sono stati essenziali per intanto avere una idea iniziale delle condizioni, ma anche per costruire il nostro, tra virgolette, esperimento numerico. Per quanto riguarda le pressioni invece? Le pressioni sono quelle di una regione, della regione della Terra, intorno ai 100 km, tra i 100 e i 150 km sotto la crosta terrestre. Quindi stiamo parlando di una pressione che va dai 2 ai 5 gigapascal, cioè in altri termini una pressione che va dalle 20.000 alle 50.000 volte la pressione della nostra vita quotidiana, insomma. La temperatura sono temperature alte, tra virgolette, che vanno da i 1000 Kelvin ai 2000 Kelvin, quasi 500 volte più alte di quella che noi sperimentiamo tutti i giorni, insomma. Allora, lo ripetiamo ancora una volta, giusto per chiarire i termini della questione. Allora, noi stiamo ipotizzando quindi che il petrolio, meglio ancora una piccola parte del petrolio formatasi all'interno della Terra, si sia formata non nella crosta, bensì nel mantello. La domanda che ti voglio fare quindi è: in che zona del mantello esattamente avverrebbe questa reazione chimica che poi formerebbe il petrolio? Della zona superiore del mantello, in quella zona che si chiama lithospheric mantle, mantello, quindi la zona più alta del mantello, quella più vicina alla crosta terrestre, perché devi pensare che il mantello va giù per migliaia di chilometri, insomma. Insomma, la Terra è grande, insomma, il raggio della Terra sono circa 6.000 chilometri. Quello che noi stiamo andando a capire sono reazioni che avverrebbero, se avvengono, nella realtà in una regione molto alta, molto vicino alla superficie terrestre. La crosta è più o meno, diciamo, intorno ai 30 km, dipende se sei nell'oceano o nei continenti, però diciamo 30 km a spanne, e dopo inizia quest'altra regione chiamata del mantello. Senti, non è che voglio fare il petroliere di turno, quindi voglio sapere esattamente i dettagli, però lo faccio per la scienza, come si dice. Questo petrolio formatosi attraverso la cosiddetta abiogenic theory sarebbe conservato all'interno di bolle, esattamente come negli altri casi, oppure un pochino a raggiera, un pochino sparso? No, in realtà noi non abbiamo studiato questo aspetto, che è un aspetto estremamente complicato, cioè capire poi come questi idrocarburi possano muoversi e possano in qualche modo trasferirsi da una parte all'altra. Nel caso dei depositi tradizionali, per esempio, parte degli idrocarburi è all'interno di rocce, insomma, esistono delle rocce porose in cui puri possono rimanere. Insomma, l'immagine, l'idea di avere una grotta, una specie di gigantesca grotta piena di petrolio, non è esattamente non è ciò che succede, insomma. Senti, la prima volta che ho letto il vostro paper mi ha dato l'impressione di essere non solo un lavoro chimico, diciamo così, ma un lavoro anche prettamente matematico, un lavoro, diciamo, statistico. Quindi, con che metodo avete strutturato la vostra analisi? Ma matematico no, diciamo, noi veniamo, tutti gli autori vengono da, diciamo, una formazione di fisica della materia condensata o quella che si chiama scienza dei materiali. L'approccio che abbiamo usato si chiama dinamica molecolare. In qualche modo noi simuliamo il movimento degli atomi gli atomi interagiscono tra di loro con delle forze. Le forze in questo caso vengono calcolate sempre al computer con degli algoritmi abbastanza complessi, risolvendo un'equazione che si chiama equazione di Schrödinger e che descrive in qualche modo il comportamento quantistico degli elettroni. In qualche modo riusciamo a simulare una data temperatura, una data pressione e le interazioni elettroniche tra i vari atomi che sono presenti nella nostra in qualche modo campione virtuale. Noi abbiamo una cella di simulazione e chiediamo al software, al computer, di simulare un certo numero di atomi, un certo numero a determinate condizioni. Questo genere di approccio si chiama density functional theory, in italiano sarebbe teoria della densità funzionale. In questo genere di approccio non è che schiaccia il pulsante e poi aspetta che il computer dia la risposta. In realtà c'è un tra virgolette, quello pubblicato è il lavoro finale di uno sforzo che è costruire i codici, disegnare i codici che ormai vengono, di codici intendo dei programmi che richiedono la collaborazione di un sacco di persone, capire poi come questi programmi funzioneranno su dilemma dei supercomputer, e poi la simulazione stessa, insomma, non è semplicemente uno schiacciare al tasto e aspettare. Ci sono diversi aspetti in cui ancora uno deve capire cosa il programma sta facendo, se lo sta facendo in modo corretto. Insomma, penso che sia il futuro in parte della scienza, non solo disegnare codici sempre più complessi e essere in grado anche di capire la fisica quando li si sta usando, insomma. Senti, siamo ormai in fine di trasmissione, o meglio ancora, siamo in fine di questa seconda parte della trasmissione, ancora ci aspetta la domanda a zainetto. Quale pensi che sarà lo sviluppo futuro di questa ricerca? Insomma, mi sembra che questa ricerca in qualche modo faccia da preludio a un qualcosa che state elaborando o che qualcuno dovrà elaborare, perché questa analisi in qualche modo si incastra in studi sul dove esattamente dovrebbe stare il petrolio, quanto petrolio potrebbe essere rimasto nella terra e così via. È all'interno di un piano, tra virgolette, di 10 anni di un progetto più ampio che si chiama il Deep Carbon Observatory, quindi in italiano sarebbe l'osservatorio per il carbonio profondo, e questo network internazionale di scienziati che tentano di capire appunto i cicli del carbonio nel pianeta. Questo che abbiamo studiato quindi è solo un pezzo di informazione che è importante per capire un quadro un po' più generale. Stiamo ancora continuando a studiare diversi aspetti di questo problema, e noi ci occupiamo fondamentalmente solo, cioè, della chimica e della fisica in qualche modo di queste reazioni. Poi ci sono altri scienziati con formazione più geofisica che tentano di capire poi la connessione magari tra la chimica microscopica e processi su scala geologica o macroscopica, come appunto sono quelli che avvengono nella Terra. Quindi sì, in qualche modo è solo l'inizio di programma di studi che forse fra molti anni permetterà di avere un quadro più generale del carbonio all'interno del pianeta. E allora siamo in conclusione quasi di Caccia Fotone, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torniamo in studio pronti per la domanda zainetto. A proposito, se domani finisse il petrolio, voi cosa fareste? Ecco i vostri pareri registrati circa 2 anni fa, sempre attuali però. Sì, bisogna vedere se come alternativa al petrolio è meglio l'energia atomica oppure le energie alternative come le energie naturali, ecco, diciamo. Più che altro poi le persone esperte, gli scienziati devono capire qual è la migliore forma di energia alternativa al petrolio. Credo che si investa su fonti alternative prima che finisca il petrolio intanto. Non lo so, se domani finisse il petrolio penso che farebbe riflettere un po' tutti, e quindi non solo le energie rinnovabili ma anche un attimo rispetto per l'ambiente diverso, su come utilizzare le energie ambientali e le risorse ambientali, poi cosa fare con la mia macchina, prendere la bicicletta. Per muovermi uso la bicicletta, però per mangiare sarebbe un po' difficile, resterei a letto. Mangerei probabilmente, non sono così legato al petrolio, anche se so che tutto è legato al petrolio, però non ho questa mentalità, probabilmente mi organizzerei con le vecchie stufette a legna. Personalmente cercherei fonti alternative, poi i governi dovrebbero probabilmente smettere di dare soldi alle multinazionali del petrolio, tanto le macchine in Brasile vanno con la canna da zucchero. Con legno si può, si fa fuoco, come si dice, poi cucini lì, poi andiamo con i cavalli, con le mucche, se non c'è benzina, va bene. Sono un ragazzo di 17 anni, non mi sono mai posto questo problema fino ad oggi, quindi... Non ne ho la più pallida idea. Grande Giove. I'd like to ride the wind and I'd like to drive the clouds just to know how good it feels to be with you. I'd like to fly on a feather and I'd like to move with the weather just to know how sweet are your kisses. But I got my... conclusionissima di Caccia Fotone. A questo punto, Leonardo, la domanda zainetto: quale delle tante cose vissute all'interno di questo lavoro, all'interno di questo studio, salveresti e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarti dietro nella tua carriera, insomma, per il tuo futuro? A te la parola. Ma una delle cose più importanti è parlare con gli sperimentali, avere un rapporto diciamo diretto con le persone che fanno gli esperimenti e capire, tentare di capire al meglio nel modo in cui sono stati fatti. E l'altro aspetto che secondo me è altrettanto importante è in qualche modo l'interdisciplinarità. Questo lavoro qua è a metà tra chimica, fisica, geofisica o quello che si chiama la scienza del petrolio, in qualche modo. Penso che questo sia realmente il futuro, cioè tentare di portare strumenti che vengono sviluppati in un settore e usarli per rispondere alle domande che sono di interesse ad una comunità ben più ampia. Che poi alla fine, se ci pensiamo, tra i vari problemi che scientifici, per esempio quello energetico, così, sono problemi che non possono essere affrontati con un unico approccio, ma richiedono in qualche modo dei team, dei gruppi di scienziati che lavorano insieme e ognuno porta un suo pezzo di esperienza, e con l'interazione tra scienziati con diverso, in qualche modo, formazione, penso sia un modo per far progredire ancora più velocemente, in qualche modo, il sapere scientifico o la ricerca. E allora, Caccia Fotone di questa settimana finisce qui. L'appuntamento per tutti voi è alla settimana prossima con la puntata numero 200, e forse ci sarà qualche sorpresa, forse sì, forse no, adesso vedremo. E l'augurio invece è il classico di buona scienza a tutti. Ciao ciao! Con chi stai parlando? Dici a me?